Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti e buona domenica 5 luglio del 2020. Buongiorno a te Carlo, come stai? Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica e sto bene, direi molto bene, è iniziato il caldo vero. È iniziato il caldo vero. È vero, c'è una bellissima giornata, colpa delle piogge che ci sono state anche in alcuni casi un po'... No, troppo forti, però adesso una bellissima giornata, almeno qui a Milano. Ci auguriamo che sia una bellissima giornata in tutta Italia, che la trascorriate nel migliore dei modi e magari anche che riusciate a indovinare il personaggio della settimana, no? Perché oggi è il giorno del personaggio. Esatto. Oggi è il giorno di indovinello, come dici solitamente. Vi ricordiamo che il personaggio che cerchiamo può essere uomo o donna o anche avvenimento o anche oggetto e che deve avere una notizia legata a sé avvenuta questa settimana. Adesso vi diamo degli indizi, poi durante la puntata vi daremo altri indizi, ma direi Laura iniziamo subito con il primo di modo che possano scatenarsi. Esattamente, cominciamo subito col darvi il primo che è questo. Il personaggio della settimana è sulla breccia da tanti anni. Se avete un'ispirazione, ovviamente come ha detto Carlo, deve essere legato questo personaggio a qualcosa che è avvenuto questa settimana, quindi frugate un po' negli archivi, nella memoria, chiamate l'800 24 00 24, ci dite il personaggio, ci motivate il perché avete pensato a questo personaggio e noi, se avete indovinato, ovviamente vi regaliamo un libro. E poi c'è sempre il solito numero 349-238-6666, se volete invece mandarci commenti, messaggi di qualunque tipo, via SMS riesce a leggerli anche Carlo, via WhatsApp riesco a leggerli solo io. E lo diciamo per precisione, comunque, ma poi glieli Laura. Leggo, glieli inoltro, esatto, glieli copio, quindi... glieli fotocopio. Però esatto, ecco, ci sentiamo di solito tutta la settimana per commentare i messaggini, quindi ci mancherebbe altro. Ecco, l'avviso che vi do però, per favore non mandate quelli vocali, perché in diretta io non riesco a sentire quelli vocali, perché o tengo il microfono aperto o parlo con voi, o tengo il microfono chiuso e ascolto, ma allora poi qui c'è un bianco, quindi insomma evitate il messaggio vocale, piuttosto dettate il messaggio al telefonino se non avete voglia di digitarlo, insomma. Comunque questo è un avviso per i naviganti. Giustissimo. Possiamo anche confessare ai nostri ascoltatori che non ascoltiamo i messaggi vocali durante la settimana, ecco, cioè dopo, non è che ci rincontriamo per ascoltare i messaggi vocali, quindi o li mandate scritti oppure vanno un po' persi. Esatto. Esattamente, è un po' perso il messaggio vocale. Novità della settimana, libri, qualcosa che ti ha colpito? Io ho anch'io una piccola cosa che poi vi leggerò, però insomma volevo prima dare lo spazio a te. Va bene, oggi parlo di libri, siccome ieri ho detto dello Strega riguardo alla vicenda Parrella, che tra l'altro poi ho pubblicato sul mio Facebook e la discussione è proseguita, oggi mi sembrava doveroso ricordare che il premio Strega 2020 lo ha vinto Sandro Veronesi con Il Colibrì, edito dalla Nave di Teseo. Lo ha vinto per la seconda volta, dopo che nel 2006 se lo aggiudicò col bellissimo Caos Calmo, che se non avete letto magari ricordate per il film di Grimaldi con protagonista Nanni Moretti. Ma se non l'avete letto, vi consiglio vivamente di recuperarlo, il libro. Vincere due premi Strega non è da tutti, anzi quasi nessuno. Prima di Veronesi c'era riuscito solamente uno, solo lui, solo Paolo Volponi, con La macchina mondiale nel 65 e poi nel 91 con La strada per Roma. E sono contento che sia Veronesi a eguagliare questo record, perché lo adoro come scrittore, mi piace tantissimo. Oltre a Caos Calmo, certamente segnalo con gioia e anche entusiasmo lo straordinario Venite B52 o lo stupenderrimo La forza del passato, libri stupendi, ed è proprio per l'amore che ho per la sua scrittura che sono dispiaciuto e anche un po' in imbarazzo nel dire che Il Colibrì non mi ha convinto, non mi ha emozionato. Dopo un incipit folgorante, l'ho trovato ostico, confuso, come se mi mancasse qualcosa. L'ho letto a dicembre e mi sono a lungo tenuto per me questa delusione, infatti non ne ho mai parlato prima. Avendone poi letto benissimo da parte di chiunque, siccome non mi fido troppo del mio giudizio, va detto che forse non l'ho capito io il Colibrì, o più semplicemente, come ormai sappiamo tutti, anche i libri hanno un loro giusto momento. La storia dell'oculista Marco Carrera è un libro di lutti, ma anche sulla resistenza, anche con delle immagini belle, sulla resistenza a qualunque tempesta, ed è raccontata con un impianto originale, andando avanti e indietro nel tempo, riempiendo la narrazione di lunghi elenchi, mail, sms, tutti espedienti che di solito mi piacciono moltissimo. Percepisco che ci sia la carne, il sangue e le tematiche di una grande storia da romanzo, ma non ho la sensazione di averlo in mano. È come se fosse un po' grezzo, è come se fosse stato pubblicato ancora in fase di lavoro. Siccome questo Colibrì sta vendendo vecchio e ne siamo felici, dico solo questo: se qualcuno dovesse prenderlo, decidere di leggerlo e poi rimanerne deluso, non totalmente soddisfatto, dia un'altra possibilità a Sandro Veronesi, perché è uno scrittore importante e noi italiani siamo fortunati ad avere la possibilità di leggerlo in lingua originale. E questa non è una possibilità da poco, hai ragione. Evitare, esatto, la traduzione è sempre come diciamo, un vantaggio, ecco, quando si può. Io non ho ancora letto il Colibrì, non posso. Adesso devo dire sarò un po' viziata dalla tua recensione, però cercherò di dimenticarla, di cancellarla e di ripartire da zero. Invece, molto più semplicemente, io volevo consigliare una lettura e la riflessione che ne consegue, che viene dalla stampa di oggi. La stampa è inteso come quotidiano, proprio la stampa, dove si parla di una manager svedese. Si racconta con dovizia di particolari di questa manager svedese che è stata una delle prime a farsi impiantare un chip sotto pelle qualche anno fa, e ora le basta una mano per aprire la porta dell'ufficio, pagare l'autobus, prenotare i biglietti per il cinema e il teatro, dare i suoi dati in fase di contratto, per esempio. Insomma, io l'ho trovata una lettura interessante, sia pure inquietante. Pare che ora questa azienda svedese che ha fatto l'impianto, che ha dato il chip per lei, ecco, abbia intenzione di sbarcare in Italia, perché vediamo chi ha scritto l'articolo, Monica Perosino, che secondo le indagini gli italiani sarebbero molto interessati a sperimentare questo chip sotto pelle per fare un po' tutto. E la domanda è, insomma, un popolo che invece non si fida di immuni preferirebbe farsi mettere un chip sotto pelle? Io non lo so, ecco, se qualcuno vuole commentare. Io non sono molto così propensa, forse sono vecchio stile, non so tu. Credo che però tu abbia aperto a questo punto a tutti quelli che diranno: ma come, il chip sotto pelle, ci controllano dall'altro, come giustamente sottolineavi, abbiamo paura a scaricare immuni, figurarsi il chip sotto pelle. Ma comunque pare ci che tenevo non a dire alla ricercatrice, sì, che anch'io riesco ad aprire la porta solamente con una mano. No, io non lo so in Svezia che porte c'hanno. So, gli impongono le mani alle porte, si vede che funziona, no, così. Ovviamente è il riconoscimento, sì, quello di cui stiamo parlando, nel senso di porte chiuse e in quel modo passando solo la mano invece di una ipotetica tessera o un badge. Sì, dice che non è fatta per controllare le persone, funziona con la stessa tecnologia che si usa per le piastrine dei cani o le carte di credito, non lascia tracce di dove vai, ma la usi quando ti serve usarla. Bah, non lo so. Comunque, io e non si perde, avrei e non si paura. Perde. Bah, vabbè, certo, non la perdi come la carta di credito. Esatto, ma c'è un piccolo problema, che se per rubarmela mi tagliano una mano, beh, io preferisco la vecchia cara carta di credito in cartoncino. Beh, anch'io. Allora, abbiamo già un'ascoltatrice che ha chiamato per indovinare il personaggio della settimana. Lei si chiama Cristina, chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Cristina. Buongiorno miei diletti. No. Oh. Buona domenica. Buona domenica. Me lo meritate anche a voi, me lo meritate. Grazie. Grazie. Volevo intervenire. Mi è venuto in mente Gina Lollobrigida, che ieri ha compiuto 93 anni. Gina però Lollobrigida, perché ha compiuto gli anni, in effetti è sulla breccia da tanti anni, su questo non c'è alcun dubbio. Chissà, sentiamo un po'. Non era lei, non era lei, però l'idea è buona. Purtroppo non era lei. Esatto, e la ringraziamo anche per darci l'occasione di fare gli auguri a Gina Lollobrigida, che è nata il 4 luglio e la data non la dico. Grazie Cristina, alla prossima, buona giornata. E la buona giornata la auguriamo anche a Pier Emilio, che ha chiamato da Milano. Buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, padre. Buongiorno. Ci dica un po', chi è secondo lei il personaggio? Sulla breccia da tanti anni, la Fiat 500. Ah, è arrivata anche là? Ci motivi un po' perché questa settimana? Perché è arrivata la prima macchina che ha messo in auto gli italiani, una macchina che è stata rinnovata nel 2007, diventando un'icona, come si dice adesso, e adesso è arrivata finalmente con ultima, ma sicuramente bellissima, elettrica. Eh sì, questa settimana è stata presentata anche la 500 elettrica. Beh, sentiamo un po' allora cosa ci dice. Che ha guidato il nostro presidente Mattarella, se ho visto bene. Quindi la notizia c'è tutta. Ma non è neanche la 500. Ma non era lei. Va bene. Pier Emilio, buona grazie. Grazie. Buona giornata. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. What you gonna do, Katie? You're a sweet, sweet girl, but it's a cruel, cruel world, cruel, cruel world. My pins are none too strong, Katie. Hurry up, Mrs. Brown. I can feel it coming down, and it won't take none too long. But since you said goodbye, the polka dots fill my eyes, and I don't know why. A me piace molto leggere ad alta voce, a volte lo impongo alle mie figlie, anche che magari sono grandi, non hanno più tanta voglia di ascoltare, però è sempre stato un po' un mio vizio. Tu l'hai mai avuto il famoso mangianastri? Sei di un'epoca in cui certo. C'era il mangianastri ancora. Beh, certo, io mi ricordo che sì. Quando me l'hanno regalato, il primo in cui si poteva fare rec play, io mi divertivo a registrarmi mentre leggevo ad alta voce. Forse era un po' il mio futuro della radio, chi lo sa. Però ecco, la lettura ad alta voce ha degli indubbi vantaggi. Adesso li si stanno via via dimostrando. Noi abbiamo parlato, ti ricorderai Carlo, di Leggimi Ancora, che era un'iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni. Nel 2019 l'abbiamo fatto, e adesso c'è un altro progetto di cui si cominciano a vedere i risultati, che si chiama Leggere Forte, per bambini ancora più piccoli. A guidare questo progetto Federico Batini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Perugia, appunto responsabile di Leggere Forte. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quindi sempre più piccoli, andate buongiorno. A vedere, no? Gli effetti della lettura ad alta voce e i vantaggi che dà. Adesso siamo in un gruppo di bambini tra 0 e 3 anni. Sì, i risultati che abbiamo presentato riguardano lo 0-3, perché insomma, negli altri gradi su cui avevamo lavorato l'interruzione del Covid non ci ha consentito di raccogliere i dati, ma il progetto si chiama appunto, come lei diceva, Leggere Forte, è un progetto della Regione Toscana in collaborazione con l'Università di Perugia, INDIRE, il CEPEL, il Centro per la Promozione del Libro e della Lettura, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l'AV. Lettura ad alta voce è un progetto che mira a introdurre la lettura ad alta voce in tutti gli ordini e gradi del sistema educativo e di istruzione toscano. E sì, quello che abbiamo visto riguarda invece quello che abbiamo presentato nel convegno del 30 giugno, riguarda i bambini nella fascia 0-3, quindi il nido, abbiamo lavorato su tutte e 35 le zone educative della Toscana, abbiamo estratto un campione che è stato controllato e tra i vari risultati sicuramente uno dei più interessanti è quello che riguarda il linguaggio, perché abbiamo visto una crescita del linguaggio del 15% rispetto al gruppo di controllo, cioè rispetto agli altri bambini che in quello stesso periodo non avevano avuto il training di lettura intensivo. Ma il training di lettura intensivo, come dice lei, in che cosa consiste? Consiste nella lettura ad alta voce da parte delle educatrici, nel caso del nido. Quotidiano, assolutamente quotidiano, tutti i giorni, partendo dal tempo di attenzione dei bambini, che quindi al nido può essere anche di 10 minuti, andando velocemente ad aumentare in alcuni nidi in una settimana siamo arrivati all'ora, che è l'obiettivo di lettura, quindi un'ora al giorno, diciamo così, questo è l'obiettivo a cui volevamo arrivare, a cui siamo arrivati. La media di lettura è passata da circa 20 minuti a 59, la media degli 80 nidi che facevano parte del campione sperimentale, quindi anche questo è abbastanza interessante, no? Dei bambini da 0-3 che passano da una media, quindi il campione complessivo degli 80 nidi significa 1600 bambini rappresentativi di tutta la Toscana, partono da una media di attenzione, cioè quello che riescono a seguire, i 20 minuti arrivano a 59 minuti di media, quindi possiamo dire l'obiettivo ora è raggiunto, insomma. Certo. Ma che cosa leggete ai bambini? Che cosa leggiamo? Dunque, sì, chiaramente essendo bambini così piccoli si parte da librini molto semplici in cui l'illustrazione è dominante rispetto alla parola e progressivamente, diciamo per semplificare, si arriva a testi in cui la parola è dominante rispetto all'illustrazione. Quindi c'è una progressività, è una delle regole, diciamo così, del training, ma anche uno dei consigli che possiamo dare ai genitori che vogliono leggere a casa ai propri bambini è quello di usare la progressività e usando la progressività si riesce ad arrivare a leggere dei veri e propri micro romanzetti, cioè si parte dalle protostorie, quelle che vengono chiamate tecnicamente protostorie, cioè che hanno la caratteristica della storia ma sono fatte da pochissime parole, per arrivare a dei veri e propri romanzetti. Infatti, come diciamo sempre, non esiste un libro adatto a un bambino di 3 anni, dipende dall'esposizione precedente alla lettura. Quindi, certo, ma le voglio chiedere una cosa, mi scusi. No, siccome già quando ne abbiamo parlato a ottobre io mi ricordo feci l'errore di pensare che leggere ad alta voce fosse che i soggetti dovessero leggere ad alta voce, però in questa ricerca mi avete aiutato, perché essendo dai 0 ai 3 anni, diciamo, l'ho capito anch'io che ovviamente si tratta esatto di leggere a loro. La cosa che io mi chiedo è: qual è la differenza, diciamo, fra parlare per un'ora a dei bambini, raccontare delle storie, perché è ovvio, se tu parli fai studiare un bambino per un'ora, questo bambino migliora, ma la differenza che io mi chiedo è fra parlare a un bambino, raccontargli qualche cosa, mostrargli delle immagini e leggere dei libri, chiamiamo della letteratura per ragazzi, perché è di questo giusto che stiamo parlando, perché è ovvio che parlare ai propri figli aiuti, ma qui noi stiamo dicendo proprio l'esperienza della lettura ascoltata, assorbita, aiuta, e volevo capire qual era la differenza. La differenza è notevole e proprio questo risultato ce lo spiega, perché un 15% di aumento nelle capacità ricettive e di comprensione, quindi ricettive e produttive, quindi vuol dire di comprensione e di uso del linguaggio in una fascia d'età in cui anche gli altri bambini crescono, ovviamente. Cioè, un conto è avere un incremento quando il resto dell'altro gruppo, il gruppo di controllo, sta fermo. In questo caso invece ovviamente anche gli altri bambini, i bambini del gruppo di controllo, sono cresciuti. Da 0 a 3 è impossibile non crescere sul linguaggio. Eppure gli altri, quelli che sono stati sottoposti alla lettura, sono cresciuti del 15%. Perché, dice lei giustamente, perché non il racconto allora? Bene, perché se noi utilizziamo il racconto, ad esempio, non ce ne accorgiamo, ma le parole che utilizziamo attingono a a quello che De Mauro chiamava il vocabolario di base, e quindi andiamo certo a riutilizzare sempre le stesse parole. La lettura è molto più precisa, ha una varietà maggiore di parole, ha una struttura particolare che è quella del libro, che quindi nel caso dei bambini 0-3 consente di comprendere la storia all'inizio aiutandosi soprattutto con le illustrazioni, quindi i bambini molto molto piccoli, quando noi leggiamo, noi crediamo che capiscano le nostre parole, in realtà seguono più la storia sulle illustrazioni e progressivamente iniziano a fare un'identificazione tra le illustrazioni e quello che noi diciamo, per poi staccarsi dalle illustrazioni e andare a comprendere il testo. Ma il linguaggio della il linguaggio dei libri è sempre più ricco. Direi che a questo punto la cosa importante è scegliere bene i libri. Assolutamente, scegliere bene i libri, ci devono essere dei criteri di qualità, in questo caso per quanto riguarda i bambini 0-3 anni, addirittura dei criteri di qualità fisici, perché poi i libri devono poter essere toccati, non è che devono stare a 1,5 metri di altezza in un nido, ma devono essere, bisogna far acquisire familiarità, certo, ai bambini col libro, quindi devono poterlo anche toccare, e sappiamo che a quell'età conoscono anche attraverso la bocca, per esempio, quindi devono essere libri adatti a sopravvivere. Adatti a ora magari in questo periodo è un pochino più pericoloso farglieli conoscere con la bocca, però insomma in una situazione normale è chiaro che i bambini devono poter anche giocare con il libro, deve poter essere e soprattutto familiarizzarsi con le storie e con la varietà delle storie. Anche questo è un'altra elemento che, come dire, lo differisce rispetto al racconto. Noi abbiamo fermare perché abbiamo il GR24. Comunque, leggete ad alta voce, questo comunque è un consiglio che possiamo dare a tutti i bambini fin dalla più tenera età. Professor Battini, grazie per essere stato con noi anche in questo appuntamento, alla prossima occasione. GR24 e poi ci ritroviamo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly. E a questo punto torniamo insieme. Carlo, ci sei? Funziona tutto il collegamento a posto? Certo che sì. Ah, ecco, mi sincero. Ho ascoltato anche tutto il giornale radio. Bravo, ho imparato tutto, ho studiato a memoria. Sì, sì, sì. Allora, io saluto una nostra ascoltatrice che ci racconta con dovizia di particolari su WhatsApp la vicenda di sua figlia, che ha ora 33 anni ma che ha iniziato a leggere a 3 anni con un metodo che si chiama leggere ad alta voce. E vabbè, scrive tanto e dettagliatamente, noi la salutiamo perché insomma ci dice che è una assidua ascoltatrice di Radio 24, che le piace praticamente tutto, non dirò cosa non le piace, ma vabbè, giusto per così. Per diplomazia. Allora, e invece adesso a questo punto andiamo dalla regione Toscana, dove si impara a leggere ad alta, dove si impara ad ascoltare coloro che leggono ad alta voce. Andiamo a Torino. A Torino per un nuovo progetto che è stato realizzato nel weekend 20-21 giugno in Corso Ferrucci, angolo via Bixio, per l'esattezza, per mano di 9 artisti che hanno decorato, ma adesso sentiamo un po' tutti i particolari, hanno dedicato questo un nuovo murales al periodo della quarantena. Bernardo Scurstone, guarda che cognome difficile che ha, lo posso chiamare il nome d'arte? Scursatone. Berni? Scursatone, esatto. No, perché l'hanno scritto tutte le volte diverso, attenzione, qua mi hanno scritto Scusatone, da un'altra parte mi ha scritto Scurstone, un po' all'americana. E quello giusto quindi è il terzo, Scursatone, in arte Berni mi sembra molto più facile. Ma infatti mi faccio chiamare così anche per quello, perché dall'anagrafe in poi tutti quanti sbagliano il mio cognome, quindi io ne ho tre versioni diverse, non so. Infatti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Berni. Buongiorno Berni, parliamo del progetto. Parliamo di questi murales nuovi, ma voi tra l'altro avete un'esperienza ventennale con il progetto Murarte a Torino, quindi davvero ce n'è da raccontare. Questi ultimi sono dedicati in particolare al periodo della quarantena, però una scelta, diciamo, quasi obbligata. Ma volendo anche no, nel senso che non necessariamente bisogna per forza raccontare quel periodo, però visto che siamo fra i pochi artisti, come dire, coloro che lavorano in ambito culturale, che si possono muovere forse più liberamente di altri, vedi i musicisti, vedi gli attori, vedi molti professionisti del settore che in qualche modo sono parzialmente bloccati, adesso magari iniziano di nuovo a poter fare dei concerti, delle cose in maniera molto contingentata. Noi, come dire, ci siamo potuti muovere un po' più liberamente, anche perché per noi la distanza mentre lavoriamo è abbastanza di default. Ovvia. I DP, le mascherine, i guanti ci sono già. Ci sono già, quindi insomma, per carità. C'era anche meno gente in giro a dirvi cosa state facendo, imbrattati ai muri? No, ma tra l'altro a proposito di questo è assolutamente cambiata la visione del pubblico, cioè dei cittadini che, come dire, che guardano, ci guardano lavorare. Una decina d'anni fa, forse anche di più, ovviamente chiamavano la polizia perché non sapevano assolutamente cosa stessimo facendo, non sapevano che esistesse un percorso per poter fare questo tipo di mestiere in sicurezza, in legalità, non in maniera sommersa, diciamo. Adesso invece addirittura continuano a chiamare la polizia, ma perché magari rifacciamo, che ne so, gli stessi muri. Stanno coprendo qualcosa. Esatto, sì, ma succedono queste cose qua. Quindi questo è un aneddoto che mi piace sempre raccontare, perché appunto, soprattutto i signori un po' più anziani, i signori e le signore un po' più anziane. È bellissima questa storia. Cioè, chiamano la polizia proprio per dire: scusi, guardi che stanno cancellando un murale. Ci sono degli strani artisti che purtroppo stanno cancellando il nostro murale preferito in via Ferru, in corso Ferrucci. Bravissima, no, ma infatti si sono tutti chiesti come mai, e c'erano già dei murales, tra l'altro, quello è come dire. Con i muri esterni della sede della mia associazione, Monkeys Evolution, ci occupiamo insomma da vari anni, una quindicina d'anni, di appunto graffiti, street art, murales e così via. E c'erano già dei murales e molti ci hanno chiesto: ma come? Ma erano belli, ma perché li togliete? E poi hanno visto il risultato. E diciamo che insomma hanno apprezzato, sia pur con un po' di rimpianto molto. E che siamo abituati a vedere effettivamente le opere di solito si conservano, non si coprono. È vero che in passato succedeva che un artista riscriveva, diciamo, sulla sua tela moltissimo, sì. Moltissimi affreschi. Ma diciamo che per noi è già più considerata un'arte un po' più effimera, se vogliamo. E siamo molto abituati al fatto che o per legge implicita della strada il tuo lavoro magari venga coperto da qualcuno, che sia per uno sgarro, semplicemente perché è ora di rifarlo, così via. Adesso appunto. E poi forse, se mi permetti, forse e così ci riallacciamo anche al motivo per cui si parla tanto di lockdown e virus anche in questi murales, è che la street art si occupa di contemporaneità, è contemporanea, racconta il contemporaneo, spesse volte lo anticipa addirittura, racconta anche la politica e quello che sta accadendo. Quindi mi sembra normale che se tu chiedi a dei writer o a delle persone che fanno murales di fare un murales oggi, è un po' inevitabile che si confrontino anche con la tematica del lockdown. Assolutamente, assolutamente, ma infatti abbiamo fatto, bravo che ci hai riportato un attimo a bomba, abbiamo fatto quest'opera, questo muro con 9 artisti appartenenti appunto all'ambito di Murarte, questo progetto ventennale che portiamo avanti col Comune di Torino. E diciamo che all'interno dell'opera sono state, dopo in 2 settimane di incontri telefonici, in chat e così via, abbiamo tirato fuori quelle che erano un attimino il piano d'azione, la visione complessiva dell'opera. Abbiamo evidenziato 3 come dire, punti scoperti, nodi scoperti della nostra struttura sociale, politica, a livello anche proprio mondiale. Che sono appunto la sanità, la casa e il lavoro. Sono 3 parti della nostra vita che sono state parecchio stressate, se non sconvolte nel loro modo di esistere. La sanità, beh, come dire, ce l'abbiamo avuto davanti gli occhi per tutto il tempo e appunto non c'è nemmeno troppo da commentare, l'abbiamo visto. Quella che è la casa invece è un po' stata il centro della nostra opera, perché la vita in casa è stata completamente diversa, come dire, rovesciata, perché la casa una volta era considerata magari un luogo di relax, un luogo dove stavi dopo il lavoro, dopo la scuola, oppure che ne so. Adesso invece è totalmente diverso. È il centro di tutto, certo, è diventato il centro di tutto. E il terzo è il lavoro, scusa se corro Bernie, ma abbiamo la viabilità, dicevi, il terzo punto è il lavoro? È il lavoro, che anche questo è stato un attimino stressato, nel senso vediamo sempre di più contratti per esempio di lavoro che non sono sicuramente the best of per i lavoratori stessi. Durante il periodo del lockdown i ragazzi, i lavoratori, i rider, andavano in giro con le bici, quelli sono contratti molto particolari, direi quasi un po' al limite di quello che, come dire, io chiamerei legalità, poi per carità la legalità ha sempre dei modi di essere un po' particolari, e quindi insomma il tutto all'interno di queste tre, come dire, capisaldi si muovono, sono mossi i nuovi artisti e hanno rappresentato insomma varie faccettature di questi temi, sia più psicologici sia più sociali. D'altronde la street art, o come dire l'arte pubblica, mettiamola così, deve parlare di questo. È importante che esprima dei concetti, delle cose, anche perché è una tela che può essere vista da tutti quanti. È una tela che potete vedere in Corso Ferrucci, angolo via Bixio, a Torino. Grazie Bernie per essere stato con noi. Allora verremo a trovarti appena possibile. Grazie. Veniamo a vedere com'è venuta. Grazie. Grazie. Viabilità. Si può fare. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, the reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink or do a collapse, knowing when you're through. Io credo sia ora di dare il secondo indizio del nostro indovinello, perché poi dopo se no non ci resta tempo per far parlare gli ascoltatori, insomma, quindi è giusto indirizzarli. Io credo che tu abbia ragionissima, e infatti sono già pronto. Vai. Vado con il secondo indizio. Il nostro personaggio, quello che stiamo cercando di indovinare, oltre ad essere sulla breccia da tanti anni, come aveva detto Laura, vuol fare ammenda. Questo è il secondo indizio, vuol fare ammenda. Il numero di telefono è sempre lo stesso, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, per indovinare il personaggio della settimana, portarsi a casa un libro. A sorpresa, abbiamo fatto con Edoardo Lavezzari così una selezione di libri e c'è un po' di tutto, quindi non possiamo darvi un indizio preciso su quello che vi arriverà. Nel frattempo parliamo. Potremmo fare l'ultima puntata. Magari nell'ultima puntata in realtà devi indovinare il libro che ti regaleremo. Ah beh, un'idea. Ma questo ci penseremo. Ci pensiamo, giusto. A fine luglio. A fine luglio, l'ultima puntata della stagione, proviamo a fare l'indovina libro. L'indovina libro. Indovina il tuo premio. Esattamente. Nel frattempo parliamo di turismo, mentre aspettiamo le vostre telefonate. Un tema importantissimo per l'Italia, c'è una fetta dell'economia gigante di questo paese, che è legata al turismo. Abbiamo sentito un po' ovunque nelle scorse settimane che l'ONU ha scelto l'Italia per il suo Restart Tourism Tour mondiale, insomma, per fare ripartire in sicurezza questo settore. Noi vorremmo capire un po' com'è andata magari quella visita, se ha qualche indiscrezione, ma in generale come sta andando in Italia, dal presidente dell'ENIT, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo Italiano. Si chiama Giorgio Palmucci, è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, com'è andata questa visita? Ci dà qualche indicazione dell'ONU, ma soprattutto forse se è stata utile a qualcosa questa iniziativa? Ah, guardi, sicuramente sta terminando proprio stamattina, perché il segretario generale Paolo Locascivili ripartirà con il suo team per Madrid, la sede centrale dell'organizzazione, nel pomeriggio. E devo dire che, da quello che ci risulta, è stata una visita ricca di appuntamenti e di incontri, e che ha dimostrato, credo, soprattutto la grande attenzione che l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha dato all'Italia. Quindi è il primo viaggio che viene fatto dopo il Covid, cioè dopo praticamente il lockdown, e quindi il fatto che sia stata scelta l'Italia, si capisce quindi l'attenzione verso il nostro paese, che rappresenta una delle principali destinazioni turistiche mondiali. Ma cosa andavano a visitare? Sappiamo che facevano Roma, Milano, Venezia, giusto? Queste sono state le tre città. Cioè, non era tanto per visitarle quanto appunto per incontrare le autorità, quindi hanno incontrato dal Presidente del Consiglio al Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, al Ministro degli Esteri, al Sindaco di Milano, al Sindaco di Roma, cioè proprio per la Presidente della Regione Lombardia, cioè per ieri l'assessore regionale al turismo di Venezia, cioè proprio per mostrare, per comprendere quello che si sta facendo in Italia, quello che viene, che quali sono le misure che sono previste per la ripresa del turismo nel nostro paese, e per dare soprattutto un sostegno a noi, come poi verrà fatto ovviamente in altri paesi, visto che l'organizzazione dell'ONU si occupa del turismo a livello mondiale, per affrontare quella che è sicuramente la peggior crisi a livello mondiale, che ha toccato ovviamente non solo il turismo, ma tanto il turismo. Sicuramente, e purtroppo l'impressione è che il turismo continuerà per un po' a essere colpito, no? Qualcosa ovviamente si è riaperto, siamo un po' tutti, ci siamo mossi, ma siamo tutti gli italiani che si muovono all'interno dell'Italia, quindi molte strutture che noi abbiamo resteranno comunque deserte, non ci saranno gli stranieri che di solito vengono per questi periodi estivi, ma anche poi in autunno, perché poi ci sono mille destinazioni in Italia che vanno dallo sci d'invernale, no, fino al 15 di agosto, quindi copriamo un po' tutto l'arco e non siamo in numero sufficiente, ecco, per dar da lavoro a tutto. No, la situazione è decisamente complicata. Poi ovviamente quella che è l'evoluzione della diffusione del contagio nel resto del mondo influenza enormemente anche quella che è la destinazione Italia per quanto riguarda i turisti stranieri. Fate conto semplicemente che solo il turismo americano rappresenta circa il 12,5% dei turisti che vengono in Italia. La situazione epidemiologica negli Stati Uniti è veramente il momento peggiore, e quindi noi dobbiamo pensare che il turismo americano sicuramente almeno prima dell'autunno non potrà ritornare in Italia. Quindi noi abbiamo, da un certo punto di vista, abbiamo a differenza di altri paesi come ad esempio la Spagna, come la Croazia, piuttosto che la Grecia, abbiamo circa 50% di turisti italiani e 50% di turisti stranieri. Quindi in parte possiamo compensare con il turismo italiano a quelle che sono le assenze di turisti stranieri. Però non sarà mai, ci sono destinazioni che sono destinazioni tipicamente per un turismo internazionale, basti pensare alle grandi città d'arte, Firenze, Roma, Venezia, basti pensare alla costiera amalfitana piuttosto che ad altre destinazioni tipicamente internazionali e intercontinentali, mentre possiamo e stiamo vedendo anche una ripresa di quello che è il turismo dei paesi vicini all'Italia, quindi il 30% dei turisti stranieri viene dalla Germania e dalla Germania si stanno spostando e stanno venendo in Italia già flussi importanti, sia verso le zone dei lago lago di Garda piuttosto che le montagne, piuttosto che la riviera romagnola e le coste del Veneto. Quindi si potrà compensare almeno in minima parte con il turismo europeo, diciamo, soprattutto vicino, certo, vicino a noi. Senta, le posso chiedere una cosa, Presidente? Ho letto in una sua intervista in cui diceva: purtroppo ci sono alcuni paesi che si stanno muovendo in ordine sparso e questo non va bene. Sarebbe auspicabile un approccio europeo per evitare di penalizzare alcuni stati. In che senso? Perché devo dire che questa cosa adesso ormai è abbastanza superata. Cioè, quando era un momento nel quale c'erano alcuni paesi europei che stavano lavorando per accordi bilaterali che evitassero quindi la quarantena ai turisti provenienti da un paese verso un altro. Era stato fatto per esempio dalla Repubblica Ceca verso la Croazia. Essendo parte dell'Europa, insomma, io auspicavo, certo, e questo è stato seguito, cioè il fatto che ci fosse un approccio europeo. Cioè, ed è per questo che dal 15 di giugno dai paesi dell'Unione Europea, dell'area Schengen, indipendentemente dalla destinazione, comunque non c'è più l'obbligo della quarantena. È chiaro che adesso... Quindi poi diciamo che più che superato... È risolto questo problema, forse grazie anche al suo allarme, ma possiamo dire che si è risolto, nel senso che c'è stato un momento di ordine sparso, ma adesso l'Europa si muove unita. Ma il fatto, dico che la cosa importante è proprio quella, poi che l'Europa si muova sempre unita, questo purtroppo vediamo che non è soltanto nel settore del turismo, certo, non è sempre il caso. Certo. Però sicuramente, certo, c'è un approccio in questo momento che è un approccio di attenzione. Ovviamente bisogna rispettare in tutto il mondo quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei Ministeri della Sanità dei diversi paesi, però insomma con un approccio che sia più coordinato sicuramente facilita anche la comprensione per i turisti che devono scegliere una destinazione, che devono, nonostante la crisi anche economica che stiamo tutti vivendo, riescano a vivere qualche momento di relax in questa estate così corta. Sì, tra l'altro approfitterei della sua presenza proprio perché la crisi è già sufficientemente pesante per tutti, italiani e stranieri, o anche gli italiani che vanno all'estero, che rispettino le richieste appunto di sicurezza, no? Che non perché si va al mare ci dimentichiamo che abbiamo vissuto un periodo drammatico, soprattutto perché non lo vogliamo rivivere, rispettiamo le regole che ci vengono date, perché altrimenti ci ricadiamo dentro. Non so se lei ha questa impressione. Che guardi, sono d'accordo al 100% e credo che sia la cosa più importante. Cioè, abbiamo vissuto e stiamo comunque vivendo, ma abbiamo vissuto poi soprattutto nel periodo di lockdown qualcosa di straordinario e estremamente difficile ed estremamente che ha colpito enormemente anche quella che è la nostra vita quotidiana, per cui è assolutamente necessario ed essenziale fare il possibile per evitare di ritornare a dover vivere quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, per cui il rispetto di quelle che sono le norme, i comportamenti, quelli che si comportano, i distanziamenti sociali, il rispetto di quelli che sono i protocolli sanitari e quant'altro è fondamentale, perché non vogliamo ma mai nella vita tornare indietro, ecco, diciamo così. Per cui ci vuole proprio uno sforzo di tutti, e non perché esistono delle leggi, non perché esistono delle sanzioni, ma perché dobbiamo essere tutti consapevoli dei rischi che tutti stiamo correndo e di quante persone purtroppo hanno lasciato la vita e quante ne stanno lasciando. Quante persone stanno morendo nel mondo in questi giorni, in queste settimane. Esattamente. L'ultima curiosità sul bonus vacanze, voi come l'avete giudicata questa iniziativa? È veramente troppo macchinoso? Si porterà qualche beneficio? Ma guardi, io come rappresento quindi l'azienda di promozione nazionale, quindi come per la promozione, cioè tutte quelle misure che possano sostenere la domanda e l'offerta di turismo in Italia sono comunque le benvenute. Il bonus vacanze è comunque un sostegno per le famiglie meno abbienti o comunque che hanno un reddito che è stato ovviamente toccato da quando è successo durante il lockdown. Poi tutto quello che potrà semplificarne l'utilizzo non potrà essere benvenuto, però diciamo che è una delle misure e io sono certo, anzi lo leggiamo anche sui giornali, che comunque ci saranno altre misure di sostegno di quello che è il settore del turismo, sì, ripeto, per sostenere la domanda, ma poi per sostenere soprattutto gli operatori di qualsiasi tipo di attività legata al turismo che hanno sofferto e stanno soffrendo migliorando enormemente e sarà ancora, ci vorrà ancora parecchio prima di ritornare a poter dire che l'Italia ha superato questa crisi. Ha superato questa crisi, perché come voi vedete molte attività non possono non sono ancora neanche essere partite. Riaperte, certe destinazioni, ripeto, mancando un turismo intercontinentale non possono vivere soltanto del turismo domestico. Quello che io posso dire e lo considero positivo è: italiani, riscoprite comunque il vostro paese. L'Italia ha così tanto da offrire e quindi sul turismo domestico, sugli italiani, andate a vedere che non ci sono soltanto le destinazioni più conosciute, ma l'Italia ha una tale offerta variegata e ampia di turismi ed attività da svolgere che anche noi italiani dobbiamo scoprirla. Sicuramente ci poteva andare peggio e sicuramente mettersi una mascherina, insomma, non sarà questo l'ostacolo a visitare luoghi fantastici che abbiamo nel nostro paese. Grazie Giorgio Palmucci, grazie il presidente dell'ENIT, buon proseguimento e buon lavoro, ne avrà tanto. Grazie mille a tutti voi, grazie. Una piccola pausa, tra grazie poco. Grazie mille. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E torniamo in studio per parlare con Salvatore, che ha chiamato da Padova per indovinare il personaggio della settimana. Buongiorno. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica un po', chi è secondo lei il personaggio della settimana? Allora, secondo me si tratta di Fiorello. Fiorello, cosa ha fatto in settimana Fiorello? Dunque, mi pare di aver sentito una notizia che faceva ammenda a proposito della conduzione del Festival di Sanremo. Allora, io non ho presente questa notizia. Con un sacco di ritardo, nel senso che era febbraio. E poi ammenda per che cosa? Che Fiorello... Esatto. Dunque, ammenda forse sul fatto che si è ricreduto su Amadeus, che era stato il conduttore di Sanremo, mi pare. Vediamo, non lo so, no, ammetto di non era questa, però va bene, il tentativo, dai, ci abbiamo provato. Grazie Salvatore, grazie, buona giornata, arrivederci, alla prossima. Grazie a lei, arrivederci. Vogliamo dare un terzo indizio? E diamolo questo terzo indizio, come ha detto Carlo poco fa, allora lo do io. È uno dei pochi riconoscimenti che gli manca, quindi il personaggio della settimana è sulla breccia da tanti anni, vuol fare ammenda ed è uno dei pochi riconoscimenti che gli manca. E a questo punto abbiamo parlato poco fa con il presidente dell'ENIT delle bellezze del nostro paese, dei tanti che le stanno riscoprendo. Beh, ci sono tanti che le stanno riscoprendo a piedi e le stanno riscoprendo magari con dei gruppi organizzati da Meeters, per esempio. È una delle appunto di queste, diciamo, organizzazioni, ecco, che aiutano coloro che vogliono camminare e scoprire nuove località a conoscersi, mettersi insieme e poi compiere finalmente questa bella passeggiata in luoghi naturalistici, ma magari anche d'arte. Claudio Perlini, fondatore di Meeters, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, turismo a piedi, no? È la grande riscoperta di questo periodo, direi. Sì, devo dire che è esattamente pertinente con il momento che stiamo vivendo. Esattamente, è una maniera di conoscere, di visitare, sicura, si può stare a distanza, si possono fare nuove amicizie, perché i gruppi si formano, no? Uno chiede di andare, cerca, si iscrive a una gita e ci trova altre persone iscritte alla stessa gita e trova con voi anche una guida però. Sì, esattamente, l'idea ci era venuta perché all'inizio volevamo visitare posti nuovi, ma nella nostra cerchia di amici non c'erano persone con questo interesse e quindi abbiamo deciso di lanciare degli eventi su Facebook e vedere se raccoglievamo qualcuno che potesse venire con noi, e di fatto è andata così. Quindi siamo partiti circa 3 anni fa e a distanza di 3 anni sono 25.000 le persone che ogni weekend vengono in giro con noi a scoprire i luoghi più belli d'Italia, e ce ne sono veramente un'infinità. Sì, ho visto molte appunti. Ma come funziona? Ecco. Ci racconta come funziona, nel senso che voi avete proponete molte mete oppure sono gli stessi 25.000 che ognuno può proporre, poi si aggregano? Ci racconta come funziona Meeters da 3 anni? No, la difficoltà appunto di chi vuole scoprire l'Italia è che magari non conosce le località se non quelle più turistiche, quelle più famose, ma in realtà è pieno di posti che sono meno noti ma che sono altrettanto belli o che hanno delle particolarità che merita, vale la pena di conoscere. Certo. E quindi noi organizziamo, ad oggi sono circa 350 eventi al mese, tutti quanti con delle guide professioniste, accompagnatori professionisti, e sono loro che conoscono il territorio, che vivono lì, che ci propongono quelle che secondo loro sono le destinazioni che merita di essere proposte. Quindi sono un po' fuori dai percorsi tradizionali queste destinazioni? C'è un po' di tutto, perché ovviamente poi vogliamo che le persone vadano a scoprire anche quei posti che non hanno mai visitato e che sono particolarmente noti, penso al lago di Braies, al lago di Soratis, Val di Mello, quindi comunque località dove c'è già del turismo presente in autonomia. Dopodiché noi proponiamo anche quelle località meno note che le persone da sole magari non andrebbero a fare. Carlo, ma bisogna essere molto in forma, nel senso che mi chiedo se i gruppi vengono anche stabiliti fra quelli che ci tengono a fare 28 chilometri al giorno e quelli che invece con 280 metri al giorno e poi una birretta si accontentano. Ma noi siamo passeggiatori della domenica, quindi il senso è proprio quello, presentare proposte che siano alla portata di tutti. Noi evidenziamo quali sono i livelli di difficoltà e l'impegno richiesto, l'attrezzatura necessaria. Dopodiché ci sono passeggiate di 5 km con un basso dislivello e altre più impegnative. Alla fine della passeggiata andiamo sempre comunque a bere qualcosa insieme, perché il senso è anche socializzare con le persone con cui passi il tuo tempo libero. Non a caso si chiama Meeters, certo. Nel senso che ricorda la parola, no, il verbo meet, incontrare, non a caso direi. Incontrare ma stando dei metri a distanza, pensavo che fosse la sintesi. Ma quello però il nome è venuto prima della situazione Covid. Ma in questo periodo è fare metri a piedi. C'è da essere prudenti in questo periodo nell'andare a scoprire i territori. Noi d'altra parte vediamo che c'è proprio una voglia maggiore dopo mesi in cui siamo stati costretti in casa, ci rendiamo conto che, lo vediamo sui numeri, la partecipazione è molto aumentata in questo periodo. Questo, se possiamo, l'abbiamo detto spesse volte, è nel dramma e nella tragedia del Covid, in realtà è uno dei lati positivi, perché come giustamente ricordava lei, a parte le mete più famose, uno dice Venezia, il Colosseo, piuttosto che Capri, però l'Italia è strapiena di posti che se fossero in un altro paese noi ci andremmo, ci metteremo anche 15 giorni per andare a visitare un unico posticino, che invece abbiamo qua magari di fianco, abbiamo a 50 km di macchina e poi 5 km a piedi. Quindi questo penso che sia un lato positivo, quindi un lato si può fare in questo momento molto difficile. Ma sì, assolutamente, in realtà è qualcosa che c'è sempre stato, ora devo dire che è di interesse nazionale. Penso che questo sia l'anno in cui finalmente riusciremo veramente a valorizzare il nostro territorio, a scoprire esattamente le bellezze che alla fine raccontiamo, però poi è sempre difficile prendere e andare a scoprire veramente un posto nuovo se non hai qualcuno che ti accompagna. E quindi l'idea di avere appunto delle guide professioniste è quella, sono persone che non solo lo fanno di lavoro ma hanno proprio la passione per raccontare perché bisogna andare a visitare la provincia di Belluno piuttosto che quella di Siena, di Grosseto o Macerata. insomma è pieno di posti anche nelle località fuori dai circuiti turistici tradizionali. L'idea di Meters è stata appunto quella di valorizzare quei posti che ad oggi non riescono ad essere valorizzati dagli enti turistici piuttosto che con una promozione online. Grazie Claudio, grazie a Claudio Perlini che è il fondatore appunto di Meters, e buon lavoro e buone passeggiate insomma. Grazie. In questi weekend soprattutto immagino ci sarà molto da fare. Viabilità, poi torniamo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E per il premio L'altro pianeta di questa settimana ritroviamo Fulvio De Rosa, ideatore del bike-in di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Perché? Perché il bike-in diventa realtà a Mantova. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci fa molto piacere, buongiorno. Insomma, che da progetto poi è diventato, no? C'è stata la messa a terra, c'è un cartellone a Campo Canoa, a Mantova, si farà questo famoso bike-in, si andranno ad ascoltare dei bei concerti, ce ne sono tanti in programma, quando partite? Allora, partiamo il 10 di luglio fino al 13 settembre, quindi più di 2 mesi di programmazione. La città che ha accolto il progetto con Sindaco Palazzo e l'amministrazione è riuscita a incarnare pienamente lo spirito con cui noi avevamo concepito questa idea e quindi ha raccolto 15 associazioni del territorio che hanno sviluppato questo calendario praticamente fitto quasi tutti i giorni tra cinema, teatro, musica, danza, e quindi tutte le forme culturali prendono corpo. Infatti partiamo il 10 con un evento swing gratuito con una big band del maestro Marottolini Otto Volante, l'11 c'è il cinema, il 12 c'è il primo big ma event. Adesso diciamo come ci si deve presentare però in un bike-in, perché poi il cartellone lo trovano, ma insomma, certo. Devono venire in bici? Allora, diciamo che quando noi abbiamo concepito l'idea a fine aprile era tassativo perché ci garantiva appunto tutta una serie di misure. Ora c'è stato un po' di allentamento, potrebbe anche essere possibile venire a piedi, anche se abbiamo poi anche realizzato quella che era l'altra idea, ossia la città ha messo a disposizione delle flotte di mobike sul luogo, quindi noi a tutti quelli che ci stanno scrivendo, e mi sembra che tutti lo stiano recependo con piacere, stiamo consigliando comunque per chi arriva da lontano di arrivare in bici, di arrivare in macchina, parcheggiare i parcheggi attigui e prendere la bici anche per fare approfittarne per visitare il lungo lago e questa magnifica città, insomma. Vedi che così c'è l'utile e il direttevole, c'è, esatto, anche un po' di movimento, poi si consumerà qualcosa magari al bar, insomma si fa un po' di tutto. Noi abbiamo in collegamento uno degli artisti che voi avrete sul palco. Dente, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Buongiorno, allora come sarà questa nuova situazione, insomma, no? È tutto un po' diverso. Sì, sicuramente sarà tutto un po' diverso, soprattutto il concerto, che ovviamente non può essere quello che avevamo preparato diciamo per un tour normale. È un po' semplificato, sarà, ho letto. Esatto, quindi faremo una cosa in due, sarà un concerto in due acustico e la situazione sarà sicuramente diversa da un concerto normale, ma quest'estate vale tutto a questo punto, se le cose si possono fare io sono per farle. Per adesso ne ho fatto solamente uno di concerti ed è stato, devo dire, meno strano di quello che pensavo. Perché comunque, perché? Insomma, ma perché comunque la gente è molto carica, non so come dire, la gente ha voglia di vedere i concerti, quindi anche se sono la metà di quelli che possono stare in un posto, sembrano il doppio. Questo, ciao Dente, sono, ciao. Carlo, questo mi sembra bellissimo, il fatto che dici sembra, cioè sono la metà ma sembrano il doppio, mi sembra molto buono. Ecco, e volevo capire sulla tua esperienza appunto come è suonare e anche come suonare per un artista come te, che in realtà di solito fate uno show insieme a tutta la band e sembrate in 50 sul palco, com'è invece ritrovarsi da solo da solo o in due, perché ho visto che in realtà spesso sarai accompagnato. Sì, ma allora io devo dire che ho fatto l'abitudine negli anni, perché perché fondamentalmente quando ho cominciato a suonare ero sempre da solo, cioè andavo sempre in giro da solo, ho fatto tanti anni andare in giro da solo e quindi devo dire che mi sono abituato, cioè più che abituato diciamo un po' al mio pane, quello lì, no? Quello di essere, certo, un po' uno contro lo sai tutti. Fare lo so fare, ecco. Ci sono pochissime cose che posso dire, di saper fare, questa è una cosa che so fare. Mi piace anche stare sul palco in questa modalità, no? Perché comunque ti permette anche di interagire un pochettino di più con il pubblico, che è una cosa che mi piace molto fare. E quindi, insomma, è una situazione che trovo abbastanza di comfort, non so come dire, anche se comunque è un dispiacere in un certo senso, no? Perché appunto io avevo preparato un concerto diverso con tutta una band, con grandi effetti speciali, fuochi d'artificio, ma vabbè, purtroppo... appunto, come dicevi, è andata così e facciamo di necessità virtù, insomma. Assolutamente, poi appunto io come dicevo prima sono per fare le cose e quindi se si possono fare... invece di dire aspetto di fare i concerti quando posso farli come li avevo pensati, l'ho ripensato e lo faccio lo stesso. Ma vorrei molto chiedere giusto. A senti, vai. No, volevo chiedere a Fulvio De Rosa una cosa, domanda brevissima. Una cosa veramente brevissima a Dente, avendo diciamo la fortuna di averlo qui con noi, gli volevo chiedere una cosa sulla scena indie italiana, ma quante canzoni sul lockdown usciranno? Vi siete già divisi i titoli? Cioè lockdown ce l'ha già qualcuno? Ma probabilmente sì, ne usciranno tantissime, credo, io non ne ho ancora scritte. Devo essere va sincero, bene. Allora forse non la faccio. Ma se sì, dai. Non la faccio, ma dai, ma tanto ce la ricordiamo tutti il lockdown. Purtroppo. Sì, non c'è bisogno. Non è una cosa da fissare, giusto, nella memoria. Io volevo chiedere a Fulvio in quest'ultimo minuto che abbiamo insieme se ci dice quante persone ci possono entrare in quest'area. Allora, una capienza variabile un po' come tutte le situazioni di quest'estate che hanno questa mappa dinamica, diciamo così. Noi abbiamo 260 postazioni che possono essere occupate da due persone se sono i famosi, insomma, conviventi, parenti, sì, contigui, eccetera. Quindi varia da potenzialmente 260 di minimo a 520 di massimo, mediamente 400 persone. Se troviamo una famiglia gigantesca, magari ce ne stanno di più. Esatto, riusciamo a disporla in modo esatto che siamo tutti insieme. Va bene, quindi insomma è un bel numero alla fin fine che siete riusciti a, come dice, autorizzare a partecipare, sì, a questi concerti. È una dimensione corretta anche per la tipologia di programmazione che è stata fatta. L'area è stupenda, si affaccia sul lago, è un'area collegata da circuiti ciclopedonali che la città ha sviluppato, quindi proprio il meglio di quello che potevamo sperare di realizzare. Io vi ringrazio molto perché ci avete creduto, grazie, l'avete mille fatto, l'avete portata a termine, ci siete riusciti. E insomma, Mantova, il cartellone, appunto, ce lo diceva Fulvio De Rosa, è ricco, lo trovate tutti voi ascoltatori su internet se volete. Ringrazio ancora una volta Dente per essere stato con noi. Allora, in bocca al lupo. Grazie a voi. Buoni concerti, buon tutto, Fulvio De Rosa, grazie. Alla grazie prossima consigliamo occasione. Consigliamo di fare, visto che è Mantova, consigliamo di fare anche il Festival Letteratura con il bike-in. Ma noi sì, andiamo perché avanti. No? Perché no? Perché no? Una grande idea. Lettura ad alta voce, così ricolleghiamo esatto, all'inizio della puntata, di leggere ad alta voce che fa bene a grandi e piccini. Esatto. Alla prossima, grazie. Grazie. E prima di chiudere vorremmo sentire degli ascoltatori che hanno chiamato per partecipare. Partecipare e indovinare il personaggio della settimana. Il primo in lista è Franco, chiamato da Bari. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Franco, come va? Tutto bene? Benissimo, io sto in campagna a raccogliere i fioroni e le albicocche. I fioroni? Le albicocche. Che meraviglia. Peccato non essere vicini, sennò venivamo anche a dare una mano, vero Carlo? Noi a raccogliere qualche albicocca, magari qualcuno ci scappava anche da assaggiare. Ma non una mano, pure due. Pure due. No? Sì, che arriviamo che due lei è un cestino. Ma anche un cestone, non ci sono problemi qui. Una gerla, va bene. Dai, andiamo ci col personaggio. Tutto. Vediamo. È il portiere della Juventus, Gigi Buffon, che sta da molti anni sulla Brescia e non vuole tramontare mai. Non vuole mollare, no, va bene. Però perché vuol fare ammenda? E qual è la notizia? Come? E qual è la notizia legata a Buffon? e che ieri ha stabilito il record presente in Serie A, non so la cifra, tenete presente che io non sono il juventino, però è un grande punto. Questo 648 mi dicono, 648 non è quello il punto, però allora qui la questione è complicata, perché il personaggio era Buffon, sì, ma non per questo motivo, che ovviamente non potevamo più si può fare. Esatto. Perché ha annunciato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico e studiare, prendere quel diploma che non ha mai preso. I miei genitori mi stanno rompendo le scatole da 30 anni e lui ha detto adesso vorrei prendere questo diploma. Ma noi dobbiamo il premio lo stesso. Vai. Esatto. E salutiamoci perché è tardissimo. Edoardo Lavezzari, esatto. Danilo Di Trani, Andrea Piana, Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e da Carlo Gabardini ciao a tutti, ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30, si può fare.